piango e nella pianta dorme ciascuno mio bracchi stava avvisato u sette giorni lenti ciascuno detto miglior bracchi sta fissato Ha ha ha ha!